Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che apre sui dati della crisi, perché alle pagine 4 e 5 trovate gli aggiornamenti. Quindi da una parte il tema del Nord-Est, che è una delle locomotive economiche di questo paese, e lì la crisi è, titola il Sole 24 Ore, più pesante. E per quanto riguarda le novità sulla cassa integrazione, su questo si sono susseguiti annunci, ipotesi, e vedremo poi cosa ci sarà nel prossimo provvedimento del governo. Intanto però la cassa integrazione potrebbe avere meno vincoli, dalle erogazioni a fondo perduto alla mappa degli effetti del lockdown, colpiti commercio e imprese individuali. Per l'emergenza l'INPS ha impegnato metà delle risorse previste e ieri ha ribattuto l'istituto, appunto l'INPS, guidato da Pasquale Tridico, vicino al Movimento 5 Stelle, controlli leggeri sulla CIG ordinaria. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo la vicenda autostrade, che poi, come vedremo, è l'apertura di altri quotidiani. Lettera di Autostrada al governo, ci sono indiscrezioni su questa lettera, nessuno ha ancora il testo completo e quindi appunto per ora non ci sono certezze, però queste due cose dovrebbero esserci, cioè l'abbassamento delle tariffe e un riassetto azionario, cioè la finanziaria di proprietà dei Benetton, che al momento ha l'88% delle società autostrade, potrebbe scendere addirittura sotto il 50%. La foto che richiama poi a un'inchiesta, pagina 11, un'inchiesta di Alberto Magnani, la Jihad punta sui tesori dell'Africa, dal Mozambico al Congo, dal Burkina Faso al Mali, le regioni dell'Africa dotate questi in realtà sono tutti i paesi dell'Africa dotati di grandi risorse naturali sono nel mirino dei fondamentalisti islamici. E questo poi magari lo vediamo poi quando torniamo sul Sole 24 Ore per gli approfondimenti. Il Corriere della Sera, la stretta su voli e movida, è appunto questo nuovo DPCM, che sapete vuol dire decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno strumento che evita il passaggio in Parlamento, è previsto dallo stato di emergenza. Siccome lo stato di emergenza finisce il 31 luglio, poi vedremo se, come parzialmente anticipato dal Presidente del Consiglio, verrà prorogato. In ogni caso, il prossimo DPCM con le misure anti-Covid conterrebbe appunto questo. C'è anche un accenno al fatto che il presidente del Senato, Casellati, ha chiesto che martedì in Parlamento si voti la proroga eventuale di questo stato di emergenza, e poi un accenno al fatto che per bocca di Nicola Zingaretti, segretario del PD, il Partito Democratico, appunto principale azionista di governo insieme al Movimento 5 Stelle, ha detto: noi con Conte, mancano due parole, sull'emergenza Covid. A proposito di Covid, con questa foto scattata a Mumbai in India, il Corriere della Sera ricorda che ieri c'è stato un record di contagi a livello mondiale, appunto se si calcola il numero dei contagi sulle 24 ore. Vi segnalo, a proposito di autostrade e ponte di Genova, ci avviciniamo all'anniversario del crollo del ponte Morandi, che fu il 14 di agosto del 2018, lo sguardo attento dal ponte, la tragedia e le leggi. La Repubblica, autostrade spacca il governo, piano dell'azienda, ecco le indiscrezioni di cui vi dicevo, da 3,4 miliardi per trovare un accordo, il PD favorevole, i 5 Stelle bocciano la proposta, Conte pensa all'uscita dei Benetton, quindi non a una diminuzione netta della loro quota, ma proprio all'uscita, e chiede a Cassa Depositi e Prestiti di acquisirne le quote e avere il controllo dello Stato. La foto è riferita poi a quella iniziativa della Domenica della Repubblica, che si chiama Long Form, ed è una un'inchiesta, una lunga inchiesta, infatti in questo caso da pagina 19 a pagina 22, quelle rovine di Roma moderna, cioè tutte le opere incompiute di Roma, e la foto è quella della vela di Calatrava l'archistar, che aveva disegnato questa, appunto, viene definita vela, in realtà è il, diciamo, la parte superiore dell'edificio, che in effetti somiglia a una vela, era il polo sportivo di Tor Vergata a Roma, abbandonato in corso di costruzione. Come sempre i due editoriali della domenica, del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, il fattore Draghi e il futuro dell'Italia, il riferimento è all'incontro che Mario Draghi, ex governatore della BCE, ha avuto con Luigi Di Maio, ministro degli esteri, in giugno. La notizia è trapelata soltanto venerdì. E l'altro editoriale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari, il tallone d'Achille delle tre grandi autocrazie, cioè Cina, Russia e Turchia. In edicola con Repubblica, come ogni domenica, l'Espresso. Questa settimana la copertina sfondo nero, una specie di elaborazione al computer di una foto di Grillo che urla, il caso Grillo, e oltre al carattere bianco c'è il carattere giallo, che è il colore naturalmente del Movimento 5 Stelle. Da distruttore a grande stabilizzatore del Movimento 5 Stelle che ha fondato, del governo Conte, della maggioranza con il PD, del sistema, proprio mentre prosegue nel silenzio l'indagine giudiziaria che fa tremare la sua famiglia, inchiesta sul leader misterioso da cui dipende la politica italiana. Questo è il titolo della copertina dell'Espresso, che naturalmente è tutto un programma. La Stampa: Berlusconi, altolà a Conte, rispetti la Costituzione. Perché questo titolo? Perché Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, ha scritto una lettera alla Stampa, appunto, che inizia così: caro direttore, non saremo noi a sottovalutare la gravità dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e il mondo. Emergenza tutt'altro che risolta, ma il riferimento è appunto a queste anticipazioni sul prolungamento dello stato di emergenza come anche hanno fatto molti costituzionalisti. Berlusconi giustamente ricorda che noi non siamo una repubblica presidenziale come la Francia, siamo una repubblica parlamentare, e quindi dal Parlamento, dice Berlusconi, come ripeto tanti altri costituzionalisti hanno fatto nelle ore scorse, ma l'ha fatto anche l'opposizione, ci sono dei dubbi anche all'interno della maggioranza, deve il Parlamento, e da qui anche il richiamo del Presidente del Senato Casellati a un passaggio in Parlamento martedì, il Parlamento deve tornare centrale, perché sostanzialmente il ragionamento è: in Parlamento sono rappresentate tutte le forze politiche, opposizione compresa, mentre naturalmente il governo non rappresenta tutte le forze politiche. Il Messaggero: sempre pronti a chiudere a zone, un virgolettato, perché il Messaggero ospita un'intervista al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Si rischia di sottovalutare il virus, troppi assembramenti. Del resto avete sentito anche nel GR, appunto, le notizie di cronaca di ieri, gli interventi per bloccare appunto chi già ha violato i suggerimenti dati per questa nuova fase. Come ogni domenica, l'intervento di Romano Prodi, la paura che opprime e la mano tesa dell'Europa. La foto in questo caso è dedicata alla vittoria della Roma ieri, che ha vinto a Brescia, e poi purtroppo sapete che purtroppo per i tifosi laziali, l'altra squadra di Roma, la Lazio, invece ha perso. Addio sogni. Il Giorno titola su un fatto di cronaca che trovate anche su altri giornali, non con questa enfasi. Il Giorno dedica a questo le prime 5 pagine. È stata scoperta questa chat, che viene chiamata chat dell'orrore, 20 adolescenti nei guai dopo che una madre scopre immagini pedofile e di violenza estrema sul cellulare del figlio. L'inchiesta mette in luce un terribile fenomeno: video scaricati dal web profondo, il cosiddetto deep web, girano sui telefoni anche di tredicenni. E appunto l'inchiesta su questo la trovate nelle prime 5 pagine del Giorno. La foto però è una bella foto di Stefania Sandrelli, l'attrice, che ha 74 anni e li porta benissimo. Una lunga storia d'amore. Stefania Sandrelli si confessa: non sento l'età, niente lifting, sognavo il ballo, poi il cinema con Pietro Germi, la mia vita indomita. Avvenire invece ha un titolo completamente diverso, strage da fermare. Di quale strage stiamo parlando? Delle persone che si suicidano. In Italia sono 4.000 ogni anno, ma si fa ancora pochissima prevenzione. Il Parlamento ora prova a muoversi, proposta una legge con nuove misure. Si pensa a un numero verde, personale specializzato, formazione nelle scuole e negli ospedali. La foto però è quella di due orsi polari, perché i dati ancora una volta sul riscaldamento globale fanno paura, e fanno paura in particolare quelli dell'Artico, che naturalmente dovrebbe essere tutto l'anno una delle zone più fredde del pianeta. Artico più caldo ma guerra fredda, scioglimento dei ghiacci al Polo Nord, mentre USA e Russia si contendono le risorse appunto che ci sono al Polo Nord. Il giornale, emergenza stipendi, il giornale riprende il tema appunto sia di chi è rimasto senza lavoro, chi non ha ricevuto la cassa integrazione, altro che Covid, democrazia sospesa con la scusa del virus, silenzio sul crollo delle buste paga e sugli sbarchi triplicati. Questa in effetti è una notizia che viene non è certo in prima pagina, in primo piano sui giornali, e però intanto appunto ci sono, complice ovviamente il caldo e anche le condizioni del mare particolarmente calme, sono ripresi gli sbarchi, in particolare a Lampedusa, tanto che il governatore della Sicilia Musumeci ha invocato lo stato di emergenza. Ci lasciamo un attimo e sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine, ce ne manca ancora qualcuna. Libero, più pensioni che occupati. Questo è un dato impressionante che è stato dato qualche giorno fa, e Libero appunto lo sceglie per il titolo principale, e il dato è questo: che a maggio hanno percepito uno stipendio 22,77 milioni di lavoratori in Italia, mentre l'INPS ha staccato 22,78 milioni di assegni. Nel mezzogiorno il divario è ancora più marcato. L'unica emergenza è l'immigrazione, scrive Libero, sbarcano altri 28 profughi col Covid. Poi c'è un elogio di Luca Palamara, sapete il ex presidente del CSM, della DANM, poi ora indagato, si è dimesso e ha rivelato la causa sono soprattutto le chat in cui Palamara partecipava, e dove sono state dette delle cose umilianti per tutti i magistrati onesti. L'abbiamo seguita molto, i giornali l'hanno seguita molto, in particolare Libero, perché Libero è il giornale che ha fatto lo scoop su queste chat, quindi è una vicenda ancora appunto che deve essere ancora risolta. Renato Farina intanto oggi fa questo elogio di Luca Palamara perché lo definisce il Buscetta della magistratura, cioè Tommaso Buscetta, forse il pentito di mafia più famoso degli ultimi anni, dell'ultimo secolo e in generale forse il più famoso in assoluto, e quindi appunto Palamara sarebbe il pentito della magistratura. Nessuno ha letto parole di pentimento dette da Palamara, ma così scrive Renato Farina. Subito sotto Roberto Formigoni, che ogni domenica interviene, ricordiamo, ex governatore della Lombardia, condannato in via definitiva e agli arresti domiciliari per fatti di corruzione, ma ogni domenica interviene su Libero, e da qualche settimana i suoi articoli, che in questo caso poi trovate a pagina 5, conquistano la prima pagina, e questa settimana il titolo è «Le regioni a 50 anni sono già morte». Perché questo titolo? Perché il 7-8 giugno 1970, ricorda Roberto Formigoni, gli italiani votarono per la prima volta per le 15 regioni a statuto ordinario, quindi ricorre questo anniversario, e Roberto Formigoni invoca più autonomia per le regioni. Questo dell'autonomia delle regioni è un tema di cui auspicabilmente ci si occuperà una volta finita l'emergenza Covid, perché si è visto, secondo alcuni, i conflitti di competenze tra regioni e Stato in materia di sanità, che fanno parte appunto della Costituzione, hanno mostrato il limite di questo federalismo all'italiana. Secondo altri invece ci vorrebbe ancora più autonomia. Dalla prima pagina di Libero vi segnalo quella che per me è una buona notizia: al Bioparco di Roma sono nati due cuccioli di leone. E Daniela Mastromattei poi racconta, pagina 14, a Roma una leonessa ha battuto la lupa, e i nomi tra l'altro di questi due cuccioli, come capita spesso negli zoo e nei bioparchi, la scelta del nome è affidata al pubblico. In questo caso i nomi li possono dare i bambini, e poi appunto faranno le loro proposte, poi verranno scelti due nomi per i cuccioli. La verità, ecco, in realtà, scusatemi, questo devo subito correggermi. In realtà gli scoop sulle chat di Palamara e dei magistrati era della Verità, non di Libero. Comunque oggi invece la Verità apre sulla questione dello stato di emergenza, l'interpretazione di Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità è questa: che la tentazione di Conte è far saltare le elezioni. Se in effetti venisse prorogato appunto lo stato di emergenza, una delle conseguenze potrebbe essere che saltano le elezioni regionali previste in 5 regioni in settembre. E poi la foto è quella di Luciano Benetton, l'articolo di Mario Giordano: altro che revoca, arriva l'inciuccio governo Benetton. La famiglia cede la maggioranza ma resta ad approfittare degli investimenti pubblici. Il Fatto Quotidiano: l'ideona leghista del compagno Sala, le gabbie salariali. Tutto nasce da una dichiarazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha detto: non è giusto far dare lo stesso stipendio ai dipendenti statali di Milano e della Calabria, perché il costo della vita è diverso. Questo credo sia un dato di fatto che chiunque sa, se è stato in alcune regioni del sud come la Sicilia e la Calabria, oggettivamente lì il costo della vita è diverso. Ma queste parole di Sala sono state accolte da un coro di critiche, e questo titolo, che coinvolge anche Confindustria, che a proposito di azionisti di maggioranza, lo ricordo sempre ma credo la maggior parte di voi ascoltatori lo sappia, è l'azionista di controllo della società Gruppo Sole 24 Ore, al quale appartiene anche questa radio, oltre al quotidiano e all'agenzia. E il sommario di questo titolo del Fatto Quotidiano è: altro che di sinistra, non è giusto che un dipendente pubblico guadagni a Milano come in Calabria, da un'idea di Bossi e della peggior Confindustria. Questa è una definizione che il Fatto Quotidiano e i suoi giornalisti amano molto: la peggior Confindustria. Naturalmente il Fatto Quotidiano giudica sempre chi è migliore e chi è peggiore. In questo caso lo sottolineo perché appunto in qualche modo sono coinvolta. Questa stessa definizione l'aveva data Gad Lerner domenica scorsa, in un articolo che riguardava e in particolare La Zanzara, la trasmissione di Radio 24 condotta da Giuseppe Cruciani. E quindi va bene, la peggiore Confindustria secondo il Fatto Quotidiano, e che cosa voglia dire poi bene non si sa. E lo sottolineo anche perché credo sia capitato a tutti voi, a me capitava ancora prima di diventare una giornalista, che quando si conosce un argomento molto bene, a volte purtroppo negli articoli dei giornalisti si trovano delle imprecisioni. Noi giornalisti siamo un po' condannati, tranne rare eccezioni, a essere dei tuttologi, nel senso che ci occupiamo spesso di argomenti diversi. Naturalmente l'etica imporrebbe di documentarsi il più possibile su un argomento che non si conosce, a volte questo non succede, e appunto chi l'argomento lo conosce molto bene da lettore nota queste imprecisioni. L'ultima prima pagina che citiamo prima di passare alle pagine interne è quella del Manifesto: fuori strada. La fotografia è di un casello scattata dall'alto, perché il tema naturalmente è quello della concessione per la gestione della rete autostradale italiana ad ASPI, ma è anche quello delle code chilometriche che ci sono state in questi giorni, che ci sono ancora in Liguria, ma anche nelle Marche, anche in Abruzzo. E quindi il titolo del Manifesto: ASPI risponde all'ultimatum del governo, presenta un nuovo piano per evitare la revoca della concessione, taglia i pedaggi, maggiori investimenti, i Benetton pur ridimensionati restano in Atlantia. I 5 Stelle scettici, PD e Italia Viva prudenti, slitta il Consiglio dei Ministri di martedì, dove si sarebbe dovuto decidere appunto sulla revoca o conferma della concessione ad Autostrade. Andiamo sulle pagine interne del Sole 24 Ore. Approfitto per segnalarvi che da ieri con il Sole 24 Ore è in edicola il libro che in questo caso è pubblicato dal gruppo Sole 24 Ore. Il libro fu pubblicato da Sironi, quindi questa è un'edizione congiunta. È il libro di Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio Ambrosoli, l'avvocato ucciso perché indagava sul crack del Banco Ambrosiano. Questo è un ricordo del figlio, con una prefazione tra l'altro di Carlo Azeglio Ciampi. Qualunque cosa succeda, la storia di un eroe raccontata da suo figlio. È appunto quello a Giorgio Ambrosoli dedicò anche un bellissimo libro che si chiamava Un eroe borghese, Corrado Staiano, e così forse appunto questa definizione dell'eroe borghese. E qui però il ricordo è non di un giornalista ma del figlio Umberto Ambrosoli. Vi dicevo, l'approfondimento, quello che sta succedendo in autostrade, lo trovate a pagina 3 per esempio sul Sole 24 Ore, con un articolo di Laura Galvani. Sì, autostrade, sia più investimenti, nuove regole sulla concessione. Poi una inchiesta della Domenica di Giorgio Santilli, super esperto di infrastrutture, che abbiamo visto su Repubblica, il tema delle infrastrutture o delle opere incompiute. Qui ferrovie, fiumi e recupero. Per Roma un piano antideclino con una partnership pubblico-privato, pagina 9 del Sole di oggi. L'inchiesta che vi dicevo, richiamata in prima pagina di Alberto Magnani su come i jihadisti, la jihad, quindi il terrorismo islamico, cerchi di mettere le mani, in parte l'abbia già fatto, sulle terre più ricche d'Africa, pagina 11 del Sole 24 Ore. Gas, miniere d'oro, cobalto e diamanti. Le regioni più dotate di risorse naturali sono entrate nel mirino dei fondamentalisti islamici, che non mirano solo al controllo delle ricchezze, sono lì per fare proselitismo. Poi la pagina Sport e Business, che esce ogni domenica sul Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo ha fatto il punto sugli stadi. Sapete che si parla tanto anche della costruzione del nuovo stadio di Milano che sostituirebbe San Siro. Rinnovare gli stadi di Serie A vale oltre 10 miliardi. Dossier della Lega Calcio per migliorare la normativa sulle infrastrutture sportive e accelerare il percorso di progetti che in 10 città italiane, nonostante le difficoltà operative, potranno creare circa 20.000 posti di lavoro. L'ultima segnalazione dal Sole di oggi, la sezione Lifestyle, la prima pagina, un lungo articolo di Maria Teresa Manuelli su quello che viene definito glamping, che è un neologismo che unisce glamour a camping. Campeggio, no grazie, c'è una suite nella natura. Nasce dalle due parole glamour e camping, niente tenda ma alloggi accessoriati con servizi a 5 stelle. E la seconda pagina invece di Lifestyle è dedicata al cicloturismo. Paesaggi e sapori per chi esplora l'Italia in bicicletta. Noi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e approfitto anche, prima di dimenticarmi, di ringraziare tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-66 o WhatsApp o SMS. Ci sentiamo tra qualche secondo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna. Vi segnalo ancora qualche articolo dai quotidiani, poi passiamo ai supplementi domenicali. Sul Corriere della Sera, pagine 38 e 39, un approfondimento sull'Ischia Film Festival, che è il primo grande evento del cinema post lockdown, diciamo, perché come sapete il Festival di Cannes, che si tiene in generale verso la fine di maggio, è saltato. E quindi c'è un articolo dove si parla anche di questo festival ideato e diretto da Pascal Vicedomini, l'Ischia Global Film Fest. Il primo grande evento post-Covid. Tante cautele, dice Vicedomini, ma gli spettacoli riprendono. Anteprime e omaggi a Ennio Morricone. E poi Massimiliano Virgilio approfondisce un po' il luogo dove si tiene il festival, appunto Ischia, quest'isola, lo strano incanto dell'isola che ti culla con la magia verde, ritratto di un luogo multiforme che sbalordì anche Truman Capote, ma tantissimi altri scrittori e in generale persone che venivano dall'estero e venivano sorpresi da quella che appunto viene definita l'Isola Verde, molto famosa per tutte le sue sorgenti termali, ma anche per questa natura lussureggiante. E poi c'è un'intervista a Andrea Occhipinti che parla in generale del percorso di ripresa del cinema. Il viale della ripresa, stiamo ripartendo, ma bisogna diventare centrali. Dalla Repubblica invece vi segnalo un'intervista a Lech Walesa, che ha 76 anni, è stato il leader di Solidarnosc, ha contribuito a una svolta nella Polonia post guerra fredda e tra l'altro ha anche vinto il premio Nobel, e parla del ballottaggio presidenziale che si tiene oggi in Polonia. La Polonia si unisca per salvarsi dal nazionalismo. Dalle pagine di Repubblica vi segnalo anche un aggiornamento su una vicenda di cronaca che ha fatto molto rumore, poi come purtroppo spesso accade non si viene più aggiornati su questa cronaca. Il fatto è l'arresto di Paolo Massari, ex assessore della Giunta Moratti. Si dimise nel 2012 proprio perché all'epoca fu accusato di molestie sessuali, tornò a fare il suo mestiere di giornalista, ora è sospeso anche da giornalista di Mediaset, arrestato perché accusato di violenza sessuale, e in queste 3 settimane sono saltate fuori molte altre donne che sarebbero state aggredite sessualmente addirittura fino a 10 anni fa. Purtroppo queste violenze non sono più perseguibili perché per legge deve essere documentata subito la violenza, ma tant'è, 10 le donne che accusano Massari di pesanti molestie. Interessante l'approfondimento della Stampa, perché è una vicenda di cui parla solo la Stampa ma che invece è importante. Ieri il presidente Donald Trump ha aperto alla regolarizzazione dei 700.000 figli di immigrati, i cosiddetti Dreamers, perché hanno il sogno appunto di diventare americani, e Trump, l'interpretazione di molti è che con questo Trump vada a caccia del voto ispanico, perché molti di questi Dreamers vengono appunto dal Sud America, cittadinanza per i Dreamers. Poi sempre Trump è stato al centro anche di molte polemiche, perché ha commutato la pena dell'avvocato suo amico Stone, che era stato condannato a circa 3 anni di prigione, sarebbe entrato in carcere a giorni, ma appunto il presidente Trump è amico di lunga data di Roger Stone, ha commutato la pena. Una aggiornamento su Alitalia, e sospiro perché veramente per me le notizie su Alitalia sono sempre notizie da mani sul volante, per citare Alessandro Milan. La dà il Messaggero, che segue sempre da vicinissimo le vicende di Alitalia. Alitalia, prestito ancora prolungato, sapete che nel decreto rilancio ci sono anche 3 miliardi per Alitalia, è pronto il decreto semplificazioni, aggiunte nuove norme nel testo inviato alla ragioneria, alla compagnia tempo fino a dicembre per il rimborso. Sapete che Alitalia vola in perdita da molto prima dell'emergenza COVID, legata al Covid, modificati anche i quorum per gli aumenti di capitale delle società, confermate tutte le norme sugli appalti. Ma nei pochi minuti che ci restano, vi dicevo, diamo un'occhiata ai supplementi domenicali e cominciamo come sempre dal domenicale del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana parte da parole di Confucio, che sono queste: se incontri un uomo di valore, cerca di rassomigliarli; se incontri un uomo mediocre, cerca i suoi difetti in te stesso. E scrive Ravasi: a chi vuole intessere una riflessione attorno a un motto illuminante o a una battuta folgorante, in soccorso vengono spesso certi autori che hanno adottato il genere sapienziale, affidandosi ad aforismi, a schegge di pensiero, a frammenti di intuizioni. È il caso di un celebre personaggio cinese, Confucio. Certo, la sua esistenza, che si è snodata tra il VI e il V secolo avanti Cristo, è alonata di leggenda. Le parole dei suoi dialoghi sbocciano dalla memoria mobile dei suoi discepoli. Ma la verità insegnata è indiscutibile, come in questa considerazione che concentra in sé lo sforzo di valorizzare gli incontri con gli altri. La mobilità accelerata della società contemporanea ci permette di moltiplicare i contatti. Se si è sinceri, si deve riconoscere che non è raro il caso di imbattersi in persone di valore. Perché non abbassare le penne di pavone del nostro orgoglio e cercare di cogliere il succo della loro testimonianza come lezione per noi? E viceversa, di fronte ai molti mediocri che incrociamo, perché avvoltolarsi nella maldicenza e nel sarcasmo e non specchiare invece quei difetti nel nostro impeccabile agire? La copertina vera e propria però è una lunga, è un'anteprima Giulio Busi al libro scritto da Giulio Busi su Cristoforo Colombo, il marinaio dei segreti, che sarà in libreria il 14 luglio. Appunto, Giulio Busi, in questo articolo, collaboratore del Sole 24 Ore, presenta questo nuovo libro, Colombo, navigatore e tagliatore di lingue. Un nuovo studio indaga la vita dell'ammiraglio, le glorie e le conquiste, ma anche le umili origini di lanaiolo, sempre occultate, e la feroce punizione inflitta a chi aveva tentato di smascherarlo, tagliargli appunto la lingua. E poi, siccome il 17 luglio dell'anno scorso morì Andrea Camilleri, Salvatore Silvano Nigro, sulla Domenica del Sole 24 Ore, lo ricorda con un articolo, L'ultima parola di Montalbano, appunto raccolta in questo libro postumo che uscirà il 16 luglio e si intitola Riccardino di Andrea Camilleri. Una bellissima recensione a un libro che deve essere molto interessante di Malcolm Gladwell, pubblicato da UTET, che si intitola Il dilemma dello sconosciuto, perché è così difficile capire chi non conosciamo. La recensione è affidata a Paolo Legrenzi. Ma chi credi di conoscere? Malcolm Gladwell analizza le cause degli errori che commettiamo nel farci un'idea di chi incontriamo per la prima volta. Si tende a sopravvalutare l'esperienza diretta. La lettura del Corriere della Sera, come sempre copertina affidata a un artista, questa settimana è Nicola Samorì, le prime 7 pagine della lettura sono un ricordo di Giulio Giorello, con tante persone che l'hanno conosciuto che appunto lo ricordano. E poi la recensione di Danilo Zagaria a un altro libro che deve essere interessantissimo, che l'ha scritto Donald Prothero, l'ha pubblicato l'editore Aboca, che sapete è anche un'azienda che produce integratori naturali. Integratori alimentari naturali. Il libro si intitola Fossili fantastici e chi li ha trovati? La storia dei dinosauri in 25 scoperte straordinarie. Il Velociraptor e altri tacchini giganteschi, naturalmente, dell'epoca dei dinosauri. Robinson, abbiamo detto, di Camilleri, il supplemento della Repubblica in edicola il sabato, ma che poi resta in edicola tutta la settimana. La copertina è proprio dedicata a Camilleri. Anche qui tante pagine di ricordi dello scrittore. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia e ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.